Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico. Nuovamente un saluto al direttore Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto sempre a tutti. Ah, eccoci qua. Allora, parliamo di una cosa che, ahimè, ogni tanto dobbiamo tenere in considerazione. Quando c'è il trapasso, poi ci sono una serie di pratiche da fare per seppellire il proprio caro, ma con i cimiteri possono capitare dei problemi, come quelli che adesso ci racconterai. Sì, dei problemi, Francesco, che purtroppo per l'Adico non sono casi isolati, ma che capitano anche, essendo più, a nostro avviso, frequentemente. Ed è un caso di resti esumati senza che i parenti dei defunti ne fossero al corrente. Praticamente un paio di soci sono andati in visita all'ossario di famiglia, al cimitero di San Michele, che si trova a Venezia, e si sono trovati di fronte al fatto compiuto. Cioè, la tomba nella quale si trovavano i genitori e la nonna praticamente non c'era più. E i due fratelli si sono rivolti quindi allo staff legale dell'Adico per vedere se riconoscere un equo risarcimento di danni e soprattutto un risarcimento che tenga in considerazione il valore effettivo, insomma, di quanto descritto. Ecco Carlo, di solito ci sono dei tempi, no, per le riesumazioni. Questi tempi erano stati rispettati? Per raccontarti nel dettaglio la vicenda, i fatti risalgono a settembre del 2013. Praticamente i signori si accorgono della scomparsa della tomba. In questo caso gli operatori della Veritas, che è la ditta incaricata, sostengono che l'intervento sarebbe stato effettuato già nell'agosto del 2012, quindi addirittura indietro di molti mesi prima, e che la famiglia era stata informata. Per la famiglia questo, oltre a non risultare, contestano il fatto che vogliono riavere la lastra di marmo con i nomi incisi, e anche questo praticamente non è stato fatto, perché per la verità si risulta di proprietà del comune. E oltretutto la cosa che ha fatto un po' indispettire i soci, che in tutta questa vicenda sono comparsi i resti di altre tre persone che oltre a loro, quindi non fa più capire, insomma, se quello che è in loro possesso sono i resti dei loro parenti o di altre persone, e che quindi hanno fatto in modo che questi signori hanno voluto rivolgersi all'Adico per gridare un po' vendetta di quelli che hanno delle cose che secondo loro sono state violate. Sì, perché probabilmente nelle riesumazioni poi se non ci sono parenti che nel momento dell'atto che decidono dove mettere gli eventuali resti, questi vengono messi nelle fosse comuni, quindi probabilmente poi avranno cercato di riparare alla cosa e non sanno bene che cosa hanno in mano, insomma. Guarda Francesco, certamente in questo momento stiamo ragionando sulle ipotesi, perché la verità sostiene di aver fatto tutto alla regola, di aver adottato quella che è una prassi in uso negli anni 60, addirittura di inserire resti ossi in una cassetta già esistente contenente altri resti mortali, per cui certamente in una vicenda che è appena avviata, perché i soci si sono rivolti all'Adico poche settimane fa, siamo convinti che, insomma, qualcosa di poco chiaro ci sia su tutta questa vicenda, e anche ritengo che, insomma, una risposta più chiara da parte di tutti in questo caso bisogna sforzarsi a darla, perché, insomma, parliamo di anche aspetti che, insomma, si va oltre a quelli che sono i materiali, ma come detto qua si va sugli aspetti effettivi e morali, per cui al di là di quello che può essere un equo risarcimento, penso che, insomma, almeno le persone debbano avere la convinzione di avere i resti dei propri cari e non magari di qualcuno che non si sa chi possa essere. Ecco, è importante interessarsi di queste cose Se si sa che sono passati tot anni, magari andare a chiedere direttamente ai funzionari del cimitero per capire quando potrebbe esserci una possibile riesumazione, o se si cambia indirizzo di casa, essere sicuri che insomma tutti siano ben informati del cambio, in modo che possano comunque avvisarti tramite raccomandata o tramite lettera, no? Certo, è anche vero che in questa vicenda comunque c'è un buco che va dal 2012 al 2013, per cui io personalmente devo dire che insomma, si sono accorti nel 2013 e di più avrei questa risposta che i fatti risalgono nel 2012, quindi. Sì. Però certamente questo non giustifica a nessuno a non dare delle comunicazioni anticipate, perché poi alla fine la base di tutto, dico, come si è impetuosi a richiedere i solleciti di pagamento quando non si paga una bolletta, insomma si può essere altrettanto determinati a pretendere un riscontro, una comunicazione, quando qualcuno magari non dà riscontro, perché insomma qua parliamo di cose appunto quanto delicate, al di là di chi abbia o meno ragione, certamente anche a noi tutta la vicenda pare veramente comunque alquanto confusa e poco chiara. Vedremo un attimino qual è la risposta di Verda, sicuramente sarà un argomento che sono felice a riprendere per aggiornarvi, ma anche che comunque voglio dire, come hai detto tu agli ascoltatori, non trascurare queste cose, informarsi, e soprattutto se ci si trova di fronte a queste vicende, ecco, sapere che insomma l'Adico si occupa anche di queste cose. Cose che intristiscono un pochettino, ma fanno parte della vita, la morte fa parte della vita, va bene. Carlo, io ti ringrazio, ricordo sempre l'Adico, Associazione Difesa Consumatori.it è il vostro sito. Grazie e buona giornata. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.